Polish Beat di Giulia Crivelli. Wave, the next wave of change, crafting the future of fashion. Si intitola così uno dei più recenti studi sulla moda, curato dalla società di consulenza Bain & Company e in particolare da una delle più, giustamente, ascoltate analiste del settore, l'italiana Claudia D'Arpizio. La prossima onda di cambiamento, dare una forma al futuro della moda. La prima parola che ci interessa è wave, come in italiano ha un significato letterale legato all'acqua. Huge waves were breaking on the shore, onde enormi si infrangevano sulla spiaggia. Surfers flocked to the beach to ride the waves, i surfisti accorrevano alla spiaggia per cavalcare le onde. The wind made little waves on the pond. Il vento causava piccole onde sullo stagno. Poi c'è, anche in questo caso come in italiano, il significato figurato. A wave of panic spread through the cloud. Una onda di panico attraversò la folla. Oppure, wave after wave of aircraft passed overhead. Sopra le nostre teste passarono ondate di aerei. Come verbo, to wave è regolare. To wave, waved, waved, e assume sfumature diverse rispetto alla nostra lingua, benché intuitive. Ad esempio, salutare con la mano. The people on the bus waved and we waved back. Le persone sull'autobus ci salutarono e noi ricambiammo, to wave back. A man in the water was shouting and waving his arms around frantically. Un uomo in acqua urlava e muoveva le braccia senza controllo. Dall'avverbio frantically prendiamo lo spunto per citare l'aggettivo frantic, che non significa frenetico, bensì appunto fuori controllo, vicino alla follia, proprio la situazione del film di Roman Polanski con Harrison Ford intitolato appunto Frantic. To wave significa anche sventolare. The flag waved in the breeze. La brezza faceva sventolare la bandiera. Tornando allo studio di Bain & Company, prendiamo anche il verbo to craft, regolare. In italiano possiamo tradurre con forgiare, dare forma, produrre artigianalmente. All the furniture is crafted from natural materials. Tutti i mobili sono fatti con materiali naturali. Craftsmanship viene da craftsman e significa artigianato. The old house is a monument to her craftsmanship. L'intera casa è un monumento alle sue capacità artigianali. Ship è un suffisso molto utile. Leadership viene da leader. Sportsmanship viene da sportsman e vuol dire sportività.